Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Benvenuti ad Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa Regionale. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa puntata, le iniziative di solidarietà per il popolo ucraino e la condanna della guerra da parte dell'Assemblea Legislativa. Parleremo poi di sostegno al settore sportivo, di ristori agli imprenditori e di servizi per l'interruzione di gravidanza. Siamo contenti che c'è appoggio dalla parte di autorità italiane, che non siamo soli e siamo accolti veramente un'accoglienza eccezionale. Quelle che avete sentito sono le parole di Lyubov Sandulovic, presidente dell'Associazione Italia-Ucraina di Bologna, presente ad un incontro in regione. Ad accoglierla la presidente dell'Assemblea Emma Petitti e il presidente della Giunta Stefano Bonaccini, che hanno assicurato aiuti e impegno concreto per l'accoglienza dei profughi che stanno giungendo numerosi anche in Emilia-Romagna, quasi tutti donne e bambini. Sentiamo la presidente Petitti. In questo momento di dramma per il popolo ucraino, l'Emilia Romagna si conferma una terra solidale e attraverso l'Associazione Italia Ucraina, sede di Bologna, oggi ospitiamo le donne per confermare questo messaggio. Devo ringraziare tantissime famiglie, cittadini che stanno accogliendo. L'Assemblea Legislativa è unita nel dichiarare solidarietà al popolo ucraino, condanna fermamente ogni aggressione militare e auspica il massimo impegno della comunità internazionale perché cessi immediatamente il conflitto. Sentiamo Marcella Zappaterra del Partito Democratico e subito dopo Matteo Rancan della Lega. Chiediamo alla Regione Emilia-Romagna di impegnarsi come sta facendo sull'accoglienza ai profughi e di trovare soluzioni insieme al governo per le forti penalizzazioni energetiche ad famiglie ed aziende. In questa risoluzione noi abbiamo voluto mettere l'accento sull'aiuto a questi profughi, queste mamme, questi bambini che stanno arrivando da questo paese in guerra al quale dobbiamo dare aiuto, sostegno, ringraziando anche tutti i comuni, tutti quegli enti di volontariato, tutte quelle parrocchie che stanno aiutando ad accogliere queste persone. La risoluzione approvata all'unanimità ribadisce l'impegno ad assicurare l'assistenza umanitaria, finanziaria, sanitaria ed economica ai profughi in arrivo sul territorio regionale, coinvolgendo le famiglie ucraine già residenti in Emilia-Romagna. Ecco le parole di Igor Taruffi di Emilia-Romagna Coraggiosa. L'auspicio è che attraverso le sanzioni economiche che abbiamo ritenuto doverose, necessarie e indispensabili, si possa arrivare quanto prima a fermare questo conflitto. Guardando anche alle ricadute economiche del conflitto, nel documento l'Assemblea sollecita l'istituzione di un fondo europeo compensativo per gli stati più penalizzati dalle sanzioni e misure di sostegno alle imprese per i maggiori oneri derivanti dalle stesse sanzioni. Un'altra sottolineatura riguarda l'approvvigionamento energetico. Ascoltiamo Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle e Marco Lisei di Fratelli d'Italia. Abbiamo voluto sottolineare l'importanza di puntare all'indipendenza energetica attraverso le fonti rinnovabili e non dover dipendere più da questi conflitti geopolitici che poi ovviamente hanno delle ricadute negative sulla vita di tutti i cittadini. Fratelli d'Italia ha voluto inserire nella risoluzione il cordoglio a tutte le vittime di questo terribile conflitto, un accenno particolare alle compensazioni delle gravi sanzioni energetiche che subirà anche l'Italia. Crediamo che la Russia abbia attaccato per primo, evidentemente vada condannata. Altrettanto siamo consapevoli del fatto che l'Unione Europea e la NATO hanno fallito nella diplomazia e ci sarà tempo e modo di discutere di come andavano condotte le trattative con la Russia perché non scoppiasse la guerra. Cambiamo argomento e parliamo di sport. L'Assemblea Legislativa ha approvato l'estensione del programma speciale di investimento per gli impianti sportivi. Il piano mette a disposizione ulteriori 5,7 milioni di euro destinati ai comuni per la messa in sicurezza e la riqualificazione di palestre, piscine, campi da gioco, spazi multifunzionali da realizzare entro l'anno. Gli enti locali potranno candidare i progetti al finanziamento regionale partecipando ad un bando pubblico. È prevista una corsia preferenziale per le richieste provenienti dai comuni sotto i 15.000 abitanti. Il contributo massimo sarà di 300.000 euro. Sentiamo Francesca Marchetti del Partito Democratico. Un ulteriore strumento all'impiantistica sportiva, alle piccole comunità che sicuramente vanno in quella traiettoria già tracciata dalla legge dello sport di andare incontro al valore sociale che lo sport rappresenta come strumento di aggregazione e di inclusione. Un provvedimento però che non soddisfa tutti. Secondo la Lega, astenuta, è un atto di programmazione importante, ma vanno aiutate anche le piccole società che devono affrontare spese elevate di gestione nell'ordinario. E il problema grave adesso sono il rincaro delle bollette. Vediamo tanti impianti sportivi dove purtroppo gli tocca tenere chiuso alla domenica perché non si ha i soldi per tenere aperte le attività. E adesso alcuni dei temi al centro dei Question Time, le interrogazioni a risposta immediata presentate in aula nell'ultima tornata assembleare. Silvia Zamboni ha chiesto chiarimenti alla Giunta regionale sulla possibilità di accesso all'interruzione volontaria di gravidanza nelle strutture sanitarie della Regione, nel rispetto di un diritto previsto dalla legge 194. La percentuale di ginecologi e anestesisti obiettori di coscienza negli ospedali, ha riferito, oscilla tra il 60 e il 100%. Sentiamola. C'è stata anche l'attenzione da parte delle ASL di garantire un tempo di attesa non superiore ai 15 giorni e vista la delicatezza psicologica di questa scelta è bene appunto non lasciare le donne in attesa. Ho chiesto anche però che i dati sull'obiezione di coscienza vengano forniti e resi accessibili a tutta la cittadinanza interessata in forma disaggregata in modo da sapere struttura per struttura dove sono gli obiettori e quanti sono. Marco Mastacchi ha sollevato il problema delle imprese che hanno registrato cali di fatturato a causa delle restrizioni conseguenti all'emergenza da Covid-19, ma non possono ottenere ristori regionali se non sono in regola con i versamenti dei contributi. Con una modifica dei bandi in essere, inserendo la verifica del DURC in fase di liquidazione, ha suggerito nel suo Question Time, i ristori verrebbero comunque erogati, ma versati all'INPS per la eventuale copertura del debito contributivo dell'impresa, che sarebbe così aiutata a superare una difficoltà anziché esserne penalizzata. Sentiamo Mastacchi. In questo periodo di emergenza Covid, la prima difficoltà che le aziende hanno è proprio quella di non pagare i contributi. Ho chiesto alla Giunta di poter far accedere ai contributi anche le aziende che appunto non avevano il DURC regolare e la mia richiesta è stata parzialmente accolta perché la data di verifica è stata posticipata dalla data di presentazione della domanda a giugno, quando verranno erogati i contributi. Così le aziende avranno la possibilità nel frattempo di regolarizzarsi, magari chiedendo una dilazione. E passiamo ai lavori nelle commissioni. Per approfondire e monitorare le azioni previste in Emilia-Romagna per la realizzazione dei progetti del PNRR, l'Assemblea legislativa ha istituito un coordinamento tra la Commissione Bilancio e la Politiche Economiche. Responsabile di questo coordinamento è Valentina Castaldini di Forza Italia, nominata da tutti i gruppi. Sentiamo cosa ha dichiarato Castaldini ai nostri microfoni. È nato il coordinamento che studierà e cercherà di approfondire tutti i temi legati al PNRR. La prima e la seconda commissione hanno dato il via a un lavoro importantissimo per tutta la regione Emilia-Romagna. Questo coordinamento vuole aiutare tutti gli amministratori locali per andare a prendere le risorse destinate all'Emilia-Romagna. Lavoreremo sui bandi, lavoreremo su tutte le domande che emergono passo per passo. Siamo al termine della nostra puntata. Ricordiamo la raccolta fondi per assistenza e aiuti umanitari ai profughi che scappano dalla guerra in Ucraina. È possibile fare una donazione tramite versamento sul conto corrente intestato all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, indicando la causale Emergenza Ucraina. Codice IBAN e informazioni sono sul sito della Regione. E per rimanere informati sulle attività dell'Assemblea Legislativa, seguiteci sui profili social e sui siti assemblea.emr.it e cronacabianca.eu. Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia-Romagna, programma a cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini e Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire, direttore Mauro Sarti.